stavi parlando di sera. No, forse stai sbagliando. Come non hai mai parlato? Beh, che tu sei gotto. Che mi riceveva tutto K. Ecco, K. No, vabbè, io che ti sta ascoltando, che apparecchio c'ha e via dicendo, capito? Se no è un macello. Perlomeno questo mio, in base alla terrore, la metà certo non va bene. Invece il suo normale va benissimo. Gappa gappa. Sì. Andave. Vabbè, comunque quello lì va benissimo, con l'apparecchio là si è andato bene l'M300, l'M300 si è andata con l'apparecchio, quindi da lì non lo sta tutti la gamba di guarda. Ne ho 3 o 4 microfoni che vanno bene per lì, però non ce n'è uno che vada bene come quello. Non lo so. Vedi tu, guarda se hai qualche documento per me invece. No, ne ho per te, Mario, non ne ho perché. Se io ho uno per il Midland, al mare, che non è che esca manco così tanto bene, e mi hanno detto che era modulazione normale, appena appena di amplificazione e mai. E poi c'ho l'M300, poi c'ho, se ti interessa, c'ho l'MB35 da tavolo però. Non credo. E stasera io te lo faccio sentire, così ti accontento, ti faccio sentire sentire, no, come esce. Ah, come esce, bravo, adesso hai specificato, perché io non ho voglia di sentire niente, capito? Così come sono. Bobo, sì, sì, sì. Davide, devi dare un pugno in testa a tuo padre. Dire a tutti le risorse capire. Non ho capito però, quella è una cosa normale che tutti quanti fanno, ma non che tu, l'operaio, ha lavorato le tue belle 10 ore e poi non ce la fanno la sopra perché bisogna spostare tutto, ma è pesantino. Però anche lì bisogna essere compatti, bisogna essere, perché se magari uno rumore subito della lista e lui dice assieggia. Invece se sono tutti quanti d'accordo, no, noi abbiamo lavorato tutto il giorno. Adesso è ora di staccare la spina, di andare a riposare. Si organizza una squadra, se lo fa domani, dopo domani. Se non si organizzava, pagava quello che c'era da pagare e tutto finiva lì. Ti ripeto, io sono stato uno dei fortunati perché ho lavorato fino a mezzanotte e mezzo. Banchi, questo, quell'altro, ce ne abbiamo spostato poca roba, tolta la merce, rimessa, guarda, l'indomani mattina il negozio era, cioè la gente si è meravigliata, quando ha visto il negozio tutto quanto cambiato, l'indomani mattina è trasformato, capito? Ecco, pagato, lo so, sì, è bello, io ho visto, non ci entro mai, ma l'altro giorno mi è capitato di entrare nel Rossi, e ho visto che hanno cambiato totalmente tutto, ma il muro mi manno. Oh, me l'ha detto mia moglie, che hanno messo anche la pescheria. Gatta gatta, tutto c'è. Ma io sono da un bel che non ci vado in quello, vado, se vado qualche volta vado, di solito vado alla Sisa, però se qualche volta vado, vado da quello di Viale Porto Torres. Gatta gatta, d'accordo. No, ci sono quelli che i giorni che non lavorano, oppure la sera quando escono si fanno il giro per vedere e poi il giorno che sono di riposo magari vanno proprio per farsi la spesa, per guardare, per confrontare, capito? E allora, insomma adesso molta gente ci va da Ruskin perché i prezzi sono più vantaggiosi e molta gente si accontenta del prodotto che non è di marca, che è buono lo stesso, però non è di marca, e costa qualcosa in meno. Ma io lavoro in un certo settore, no? Adesso ti dico una cosa, allora, per esempio, le caldaie, io adesso ti sto facendo un esempio, le caldaie Riello, le cosiddette super lusso, quella e quell'altro, hanno un prezzo, perché c'è il nome Riello. La stessa caldaia, la stessa fattura, la stessa cosa, solamente che anziché esserci scritto in grande sopra nel frontalino, anziché esserci scritto Riello, c'è scritto Thermital. Sa quanto costa meno? Costa 300 euro e meno. E la caldaia tu la pigli, la smonti, la giri, la rigiri, la lamiere, tutto quanto. È precisa e identica, non cambia una virgola. Il motore, che il motore, c'è scritto Riello, il bruciatore. È vero. Tu guardi la fattura, quando ti viene consegnata, c'è scritto SPA Riello. Cosa cambia? Eppure costa 300 euro in meno. Ed è la stessa ditta che le fa, E magari la stessa vita che li fa per più ditte. Fabio Mario, io sono arrivato, dai, ti saluto e magari vi prendo un po' cena, dai, ci sentiamo dopo se coincide. Kappa, ci ascoltiamo dopo, dai, ciao. Vai. Vai, fatti un po' fatto tu. Non si mangia. Mario! Dimmela! Beh, anni più qui. No, non è Valzeva. No, è Taluana, esista. Non è Valzeva. Adesso non hai visto il telegiornale? No, sono rientrato poco fa a casa. Alla telegiornale con l'aspetto, sono capissi, sono di sacco musso. Era a casa dentro lo buon pugno, sono stato a prendere un baracchino. E stavo guardando il telegiornale, era 3-4, temporale ha messo. Temporale, non lo so. Ma guarda, se c'è quattro, ma c'è temporale. Poi guardo la luna e magari c'è che c'è il sole. Non capisci. fosse più un cucchio. Comunque oggi è una bellissima giornata, come va a andare a buon poco? A prendere un malacchio se non andare. Dai, il tuo? No, quello di Giovanni di Sero. Ah, l'hai ritirata? Ma devo controllare la sigla della camera, ecco. Per vedere un po' come andava. Non si telefono. Bisognava smontare una cosa, la camera, portarla lì da Fusaro. Ah, che bella. Allora non l'ho ritirato. Sì, l'ho portato, se non si vedeva, vabbè. C'è la bronca in luci, il baracchino, non me la finita. Allora volevo cambiare i trimmer, ma non me la frega niente. Ah, scappa, scappa. E vabbè, io vedo che gli ti dica. Ma lo so, siamo di rottiglia, mi chiedo se c'ha tempo, lo apre e lo guarda lui. Sì, vabbè, no, non mi interessa, lo lascio così. Se ce la faccio a prenderlo, adesso vediamo, perché ne ho un altro da prendere, con la banda laterale e tutto. Ehi, cappa, fate rubis, spendete soldini e compratevi gli apparati buoni. Cappa, velocissimo. No, c'era Gianni, che stava rientrando, gli ho fatto compagnia per un pezzo e niente, adesso lui è chiuso, e io, ero così, gira, non so cosa cucarmi, o rimanere alla radio. Beh, se ne gana, può rimanere, se non ne gana, si go, se vai dopo la televisione. Ma non è che mi devi andare a far meglio della televisione, anche poi una cosa che mi mangio l'uretto, siccome la stanchezza non so se mi curico per male. E mi siederò. Non quello che è vero. Gappa. Che ne viene su stasera? 3:05. 3:05 è già a casa? Gappa. No, ma se l'ha passato la branca. Niente. No, vagava. Si andava. Lui. E beh, il vetro Mario. Procurato della macchina. Sono sotto la macchina dell'ospedale. Ma adesso vediamo un po', se in settimana entrate ce la faccio a farmi un giro lì, o la Tavone, la Marcello, a qualcheduno, a vedere se ce l'hanno questo cavolo di vetro. Praticamente c'è due macchine, tu così? Non praticamente, sono due macchine. Tu bari, cava. Ma la 75 l'ho messa in pensione, ha rimesso la circolazione quando è andata a mangiare nell'Avide. Cappa. Andava Luca Prifer. Tu mi hai bisogno di fare un passaggio un attimo. Dimmi se la c'è. Male. La mazza ti dico aria. No, prima non so. Buonasera a tutti, ciao Mario. Ciao Luca. Compro quello scambio. Tu stai sempre comprando, vendendo e scambiando. Cosa stai comprando da questo giro? No, niente. Io qui si compro questa radio. 350 euro compro subito. 70 anni che sono entrato, vuol dire quella 4 euro. Facciamo anche fuori, non è quando. E appunto per quello, se sa che l'ha andato, cazzo ti persegue per un bastone. Ma no. Oh, se lo senti, saluta a Marumi. Hai già fatto. Sì. Non sei nessuno. Ma io e Luca. Tutto pace all'orizzonte. Luca. E io. Quanto sentite tutto il giorno, Luca? Cosa sei stesso? Che la dugana. No, stasera stavo parlando con Gianni, gas, per carità. Ma tra voi che mi ha fatto? Mi stavo spiegando la terza media che è a scuola, così diciamo, come funziona. Fate aiutare qualche amico, ma ne sa di più. Ma tre cose mi ha detto, così con la poi ci metteva la bocca in questo, un lauro un fila. Poi alla fine, l'ultima volta che gli ho detto, ripeto, non ti stavo seguendo, sei drumizzo. Oh, iaia, per carità. Fufia! E quale non lo sai, guarda? No, ancora no. Se la trovo un'altra un po' più conosce della roba. Guarda, bellissima è questa, per carità. Nuova di faccia. Nuova, non c'è neanche un graffietto. C'ha solo due segnetti su del, come c'era l'accordatore, no? Su la, sopra il coperchio, sono rimasti due, sai, le due macchioline dei tondini, in pratica dei gommini, del coso, dei piedini dell'accordatore. Ma no? Tutto il resto è perfetto. Vai. Ma quello c'è l'accordatore automatico, no? Cos'è il 4, no? L'1. No, 4. 1-4. E se trovo il 4 vendo l'1. Lo vuoi sì? Ma Mario me. Mario. Come? Sentito Luca. Cos'è che sta scherzando Luca che non è? Cosa? Poi lo sta vendendo. Venga. Ehi, è camera. Ma questa già l'ha riappigliato Mario. Ma cosa era riadduccato? No, Mario. Ma non c'è la linea che volte su? 4,50. È che non so, stava cambiando, voleva il 4,40, se non sbaglio, vuol dire? Infatti sta andando o per mutare oppure vende il suo, cioè comprare l'altro. No, è K. È nuovo, capito? È nuovo. Provate a non parlare, E bella fattaccia. Allora, sono apparecchi, solamente che sono riusciti bene, ecco. Ma in 27 secondo me non va, il 4,50. Beh, per quello che ho messo io, no, per quello che ho messo io. Io so che il 140, il 680, il 100... il 4,30 e il 4,40 che vanno in 27. Gli altri sì, vanno, ma da cacca. Ma anche se 80 non lo sento molto, capito? Boh. Ti sembra a te? Ho detto forse non mi hai sentito quando ce l'avevo qui. Ah, già ti ho sentito. Sì. E la cosa che ha detto che non era mai uscita così bene quella radio. Ce l'aveva fatta. Quando ce l'ha fatta lui, l'ha fatta fare. Qua sta arrivando lui qua, quasi 9:20. Va bene. Andate. Qua sembra che sia a posto, non è uno stazionario. Ciao signori di Roberto, figurati tu quando hai mai trovato la capissuria. Figurati. Io sono contattato con l'email. Ma che ricezione è migliorato allora? E via. Sì, un pochino. A volte Roberto se da sicuro attaccato io non lo sento. Ma se sono altro Santiago 1 però Radio 4. Che cazzo, Santiago 1? Considera, lo squelch adesso è chiuso perché fa provare quanto la manto qua. Capito? Perché ci ha rifatto la manto quando l'ha aperto un pochino per attaccarlo a questa antenna. Prima non metti un'antenna più come si deve, lo chiudiamo di più in modo che si sente, riceva di più. Eia. Andava. Prima risetti, la boiuta, la boiuta, insomma stai migliorando, eh? Ma se tieni varia, la tieni di trattenne, va, dai, di la verità però. Saranno 15, penso. 15? Saloa? Questo va a fondo scala. A fondo scala? Però va fino a 5 volte. Perché adesso per attaccare l'altro, vediamo un po' quanto andrà. E l'altro va fino a 1 kW. Quanto buttava fuori quello 100? 150. Mario. E ti pare in poco di Bari, KK. Mario, ma niente sì. Del contatore mi vuole bappaggiare isso. Sì. No. Prima si basa l'alimentatore. Se già ti sono ventolata dell'alimentatore. Io non avevo l'alimentatore suo originale. Che si compra 30. Vabbè, dovrebbe. No, c'è meno un faccio il 430. Sono 20 ampercio, 430. Esorbimento. E di fino a 20 ampere, capito? E l'assorbimento è 13,8 di potenza fino a 20 ampere di uscita, però non più di tanto. Se gli alimentatori sono da 13 ampere. Però quello che sto dicendo io è che il 430 e il 450 assorbono molto meno come corrente, capito? Come amperaggio ne assorbono poco rispetto ad altri, tipo quello lì, se tira fuori 150 watt, se ne rilente che dovrà assorbire non meno di 50 ampere. Tu considera che io sono, quanto sono, 10 minuti in trasmissione, sto parlando con voi, allora grazie, si accede la ventola dall'allenatore, si accede. Qui con pochi watt, se tu aumenti, impazzisce quella ventola. Sì, ma devi sciogliere l'antenna. KK, così fai come pompugno. Ha portato un paio di antenne, li ha attaccate qui nel terrazzino da me. Dice, aspetta che proviamo come esce. Ha messo la mia 27R, una cannonata, poi ne ha messo un'altra, ha fatto un passaggio e si è sciolta, poi ne ha messo un'altra ancora, chissà se è fusa proprio. E con quante volte? Lo 600. E che ti male? Regge, 2000 volte mi sembra la volta qua. Non lo so la volta qua quanto regge, ma questa qui era, erano un paio di antenne che io avevo da diverso tempo in cantina e lui le voleva provare, vabbè, senza radiale, senza niente, la B27R l'ha appoggiata lì sulla ringhiera, si è fatto fare un paio di controlli e tutti quanti sentivano bene, poi l'avevo data alla buona anima del Rambo, il Rambo è sparito perché è partito in continente e poi ho saputo che era morto. Il Rambo lo faceva Giuseppe. C'era Giuseppe, mio cognato, che si chiamava Rambo, che lui è in continente ancora, come messo detto. Ma un Rambo, quello che portava le bombole. Rambo. Perché all'epoca c'era anche mio cognato, come c'era il baracchino, si faceva chiamare Rambo. Giuseppe si chiamava. No, questo qui abitava in via Murra. Via Murra è su in alto. Niente. Ma dopo un paio d'anni mi hanno detto che era morto. Io non l'avevo più visto perché poi lui dice che era partito su in continente. Ah, vero, e poi invece se n'è morto. Invece gli altri due di macchina le ha sciolte, fuse. Ah beh, ho detto. Luca, manicomio! Manicomio sta parlando! La cadena! Te ne messi! Muri di mori, mori! Ora vorrei quanti volte togliere la mano. Ce ne erano, ce l'hanno fatto da 5. Vediamo un po' quant'è. Quanti volte toglie? Luca! Che cavolo fa mio figlio? Luca! Quella cosa là, per adesso niente, ma adesso che sta scendendo. Va bene. Va bene, perché quando non si prova bene, ce l'ho uno io, prova bene. No, io vabbè, già va bene, non c'è problema. Quello del 16 uguale. Gabba, uia, sto facendo un mal di gabbo. Guarda che sto mangiando due gacce di birra. E birra in lupo. Avanti, non so se mi rendo conto, ma per me è la vita, la birra. appunto, non lasciava lì. Ieri, no, avanti io l'ho bevuta. Io se l'avevo bevuta, se è andato a poco gli aveva anche offerto la birra. No, non a parte non ne bevevo neanche, no. No, non si parava. Quando non si para, non si para. Ma che è se per attaccare la birra? Perché il WhatsApp era. Aspetto. niente, se capita l'occasione va bene, se no alla passerina o non le avrebbe le poche del mio romagno. Quindi l'ho visto io pesato davanti a me. Manca a pagare. adesso che cosa ha formattato quando c'è la fredda un poco perde. No, ma poi non mi interessa niente, non è che io quando si tratta di mangiare non li ho mai guardati nelle 10.000, né 10 euro né niente. Quando si tratta di smorfì, no. Siccome c'è molta richiesta, loro cosa devono fare? Devono guadagnarci, quindi 8-9-7 euro arrivo alle 5 da lavoro, mi sportavo, mi muovevo un po' come volevo e tutto andava bene. Io ho questi amici miei, Auri, Arturi. Allora sai che loro, Agnello Sardo, in Sardegna, non ne vendono manco uno. Se ne danno qualcheduno, a qualche parente o a qualche conoscenza, ma qualcheduno. Pensa che loro si fanno il formaggio e non lo vendono, se lo tengono come provvista e per fare gli spuntini con gli amici, però non lo vendono. E gli agnelli e il porcetti, mi sa dove li manda a Roma, in Sardegna lui non lo vende manco uno, giusto qualche amico così che non gli può dire di no, ma se no lui viene l'articolato con tre ripiani e tutti gli agnelli li mette dentro e li manda su a Roma. Sì, capra, beh, ci credo, ci credo. Ma vuol dire che c'è più guadagno così che darlo come stanno dando questi, vabbè, comunque sia. L'importante è che ci siamo sistemati per fare questa, poi. Vabbè, quello sì. Vabbè, su quello non c'è problema, solamente che a me mi dispiace vedere certe cose, perché sembra che la gente mangi solo a Pasqua e a Pasquetta, e io mangio gnari. Cioè, a me non è che mi umiliano un capo che domenica mangiano, mi umiliano un pezzo e me lo fosse forno. Cioè, non è che la gente sta a Pasquetta, no? E allora, no, se te lo sai. No, no, no, anche io sono un tipo che, anzi, ti dirò di più, lo mangio meglio fuori, fuori onda, che quando siamo così. Ma lo fanno i traghi, se vorrei, sì o no? Sì, nel periodo di Natale, o di Capodanno. Io, che è, almeno 2 settimane prima, per dire, mi viene voglia di farlo, poi tanto a Natale, con tutta la roba che c'è da mangiare, non lo gusti come lo dovresti gustare, quindi, no, anche io sono per fare, quando ne ho voglia, ma questo è Roberto Quadrato, ciao. Ma questo è Roberto Quadrato, ciao. ballata gli ho fatto. Non sei mai sceso, non sei mai sceso, come se lo prendere io. Già, prego se. Che è meglio di mio. No, no, no, no. Cosa? Chi? Sì, c'è la sua modulata. Che mi stessa il calzino. Ma compleanno? Sì. Tu non sei mai per ritenere saluti, ciao. Ciao a tu, ciao. Poi via te lo riserve. Ciao tu, però non me lo so come la menazione, mi sarà buono. No, tu sei qui, si accorge. Ah, sì, ciao. Vedi tu, a tu. Thank you. Io sì. Sì, io. Ma cosa è che ho trovato? Perché uno mi diceva che non ero centrato. Però secondo me era lui. Perché molta gente che ha fatto di professionale mi dice che sono centrato al centro. Però alcuni affari di malattieschi però non dicono che non sono centrato. Ma tu non hai toccato nulla quando ti sei spostato del canale? Sì, ho toccato il file tu. Vale, certo. Sì, io. Però modulazione non ce n'era, perlomeno nei miei confronti, a Claudio dice che gli arrivava a Santiago 4, 5. Ma lui è nato. Ma tu ti sentiva? Sì, a me mi sentiva. A me a Roberto ci sentiva, però piccoli dei piccolini. E Robert, non interessa che arrivava. Sì, ma non serve a niente, già. Perché noi arrivavamo e lui, perlomeno io, la mia postazione non lo sentivo. Sì, in questi casi qua la classificazione della notte non serve, vedi. E cappagamma. E infatti volevo provare pure a cacciare il disegno, che invece c'avevo una persona che mi faceva andare in cerchio lì, non riusciva a sparare. Magari c'era qualche kill fatto male. Ammazza la cappagamma. Sì, no, beh, comunque con la propaganda tu in banda normale, se vai in banda laterale, arrivi direttamente a te come niente, ti parlano con Chiaramonti, parlano con Tigi, con quello, con l'altro, tranquillamente, con 5 watt. Cappagamma, in banda laterale non c'è 5 watt, minimo sono 10. Sì, ma perché c'erano anche 10, dai, in banda laterale. Vediamo ora che sono sempre 5 comunque. Sono 10, è lo stesso, non sono mai come avere 100 watt, 200 watt, 1000 watt. Prima attaccavano i cosi da mare anche per arrivare a tutte le parti, arrivavano a visitare, arrivavano a tutte le mie parti. Poi facevano legare il watt e le cose, di Vittorio, Vittorio Gio, roba di sparate, di notte. E io la cosa più allucinante che ho visto è da Pompugno, quando abitava in via Rezzendo, che parlava con il Lacino. Da lì, ma c'aveva qualcosa da fare. Non ce la voglio venire in quella zona, ci vuole una buona sua bella posizione. Ciao a tutti. A te la ben tratto. Tu sei stato io, perché ero Gianni. Io sono in periferia, poi a questa altezza voi siamo in periferia. buttato a destra e a sinistra, sono ho la schiena, no? Ho trovato il bimacca appoggiato. Quindi vi saluto, rimango momentaneamente in quel rix, faccio una carrellata dove si trovo ammalato da qualche parte e poi me ne vado a nanna. Statene bene, buon divertimento a tutti. Mi ascolto ma non le prendo la mia voglia, divertitevela. E comunque Gianni ricordati sempre come ha detto Mario che quando passiamo a tenere il water raddoppiano automaticamente su tutte le radio. Non c'è una radio che non raddoppia ma la laterale, quindi se ha 5 watt sono 10, se ne ha 10 sono 20 e così via, tranne le HF che hanno la potenza regolata da 0 a 100. Capisce ripeto, prendendoci le nostre responsabilità, però siccome siamo tutti censurati, siamo tutti, insomma, che stiamo lottando per il posto del lavoro, il prefetto ci ha già detto che a lui, da quello che scrivono, di la pagina, perciò non se la fotte mai più nulla. €7 a quanto è? Non avevo mai nulla io, come mai te lo avevo? Perché ci vuole regalato, lunga goccia. Appena quello che mi ha fatto Antonio delle 5 le ruffe in pressione, capito? Infatti non è che usando con l'amplificatore di 5 le ruffe, 10 metri non ancora praticato, se no si giù le asciugate, è da 2 e mezzo, da, non è un capo, come dice Marco, capi per quelle antenne di cui non aveva 6 mm, 4-6 mm, io ho preso la 6 addirittura, ma lì era di 58, capito? La stabilità è tutto quello che serve. Va bene, ti trattieni o te ne stai andando? Sì, un po' già mi trattengo, poi giustamente chiudo perché dovrò uscire a te solo una mattina, quindi non è posso trattenere più di tanto. Sì, ma anche per la larghezza di banda vuole grosso il cavo. Per tutto quanto, capito? Per tutto quanto, perché tutto l'insieme delle cose e poi va perfettamente, no? A complessare tutto il sistema operativo della trasmissione. È chiaro che se il carro è grosso ha un margine di guadagno superiore sia ricezione che trasmissione, se il carro è fine non ci sono alternative, si recupera quello che si può recuperare, basta, capite? Tutto lì. Gappa. Cosa stavo dicendo? Quella persona lì da Cerci. Io gli ho servito, che io stavo male in questi giorni e non avevo fatto niente per quello. Forse era già venuto sul tardi. Perché lui mi ha mandato un messaggio, ma io ero addormentato stasera e non l'ho sentito. Mi sono svegliato quando mi ha telefonato mia cognata, stava cercando mio fratello, ovvero Ego, quindi. Io me ne sono accorto dopo del messaggio, perché o non mi ha squillato il telefono, perché mi faceva la sirena con il messaggio, invece quando mi telefono mi ha squillato quasi il voce, e lui dico che mi sono svegliato quando mi ha telefonato mia cognata. Positivo. Gappa. Evidentemente è quello. Ok. Vabbè. A volte i telefoni fanno così. Va bene. Ognuno vuole trasmettere anche lì. Proprio per il sacco buco eravamo 2 giorni in sciopero ad Alghero e ero praticamente 24 ore su 24 all'impianto, perché non ci sono queste manifestazioni, se non ci sono i responsabili è un casino, quindi eravamo tutti lì, non tutta l'anta, tutto il baravano, perciò sono tanto morto, sono entrato stasera, non mi ha nessuno che era acceso per vedere chi c'era, ho trovato a Mario, a Gianni, e basta. Quindi ti saluto, me ne vado a mamma, sono già le 10 e quasi un quarto. Oggi domani mattina mi alzo un po' fresco perché in questi giorni non ho dormito niente, avevamo un centro di riunione fino all'una, alle 2 di notte, mangiando, bevendo, chiacchierando e non per quello di bucarmi, sono fatto una bella veloce stasera e adesso ho cenato e mi curico così. Allora siamo in forma, gappa, ti saluto. Alle prossime, ciao anche a chi sta ascoltando, buonanotte a tutti. Ci sentiamo alle prossime, Natalia. Ciao. Un attimo il break registrato. E ciao Carlo, buonanotte, buon tutto, per domani. Ci sentiamo alle prossime, allora. Se sei stanco non ti trattengo. Avanti il break. Sì, buonasera, ciao Claudio, buon lunedì. Ciao Antonino, ci ha sentito la mia amicizia. Non so chi ci sia, sono acceso adesso. Ero sui bici. 57 10 2, che l'avevo già avuto, ottima radio. E poi c'è un'altra radio che mi interessa, però ancora non è finita, la finisce dopo un anno. Ciao, nessuno, già siamo io a Natali. Dai, vi saluto a Marco alla Coetani. Ciao, le prendiate. Ciao, Franza. Ci sentiamo alla prossima. Anch'io sto chiudendo. Domani c'ho quell'impegno lì, alle 7 devo essere al QTH con la Lingua dell'ONU. Vabbè, dai, ci sentiamo alle prossime. Ciao, Gianni. Ciao anche a chi ci fosse un ascolto. Io purtroppo non mi posso trattenere. Faccio il QRT. Alle prossime. Io ho parlato, niente. Io ho basta che il conduttore solo sono stati tutti chiari, capito? Ma è diversa la situazione. Sì, quando la situazione continua è quella la ragione. E forse lui si tranquillamente. Se uno c'ha il baracchino normale mi tocca farlo centrare, mi tocca centrarlo per forza per poterci parlare. Ma se non è mai centrato, ma deve essere centrato, capito? Perché se o senti a uno o senti all'altro. Invece con altre cose è diverso, sentono tutti bene, capito? Comunque non riuscivo a centrarlo, boh. Ecco qua, avete spazio, io che non mi sentivate, eravate attaccati come mollava uno, ma la sotto subito punto per l'altro TTT. Jack Roswell. Io ho preso un telefono spagnolo, si chiamano così, intromettono in questo locale, chiamano telecervello, ma chiamano telecervello, e aspettando. Se li tu mi stavi ammazzando per quello, ho mandato a fare in quel paese, ma scusa se li tu. Perché se tu mi senti, io ti faccio questo locale, ci metteva a chiamare, ma parlava talmente bene lo spagnolo, pensavo che era lo spagnolo, arrivato a 9, a Giumanda parla a Gianni in banda laterale, per quello perché l'ho parlato così Marco. Ma non si spiega che cosa, non lo so già, riprendi Marco qui, io ti stavo dicendo che Gianni l'altro giorno, io non ascolto, e parlava praticamente con tre stazioni col baracchino. Praticamente non riuscivano a centrarsi uno con l'altro, però Gian Maria con l'altro, con Giulio, si sentivano bene, ma non sentivano Gianni, ecco quello che ti ha chiesto Gianni, a prescindere dal fatto che tre apparecchiature materiali con un baracchino, è chiaro che c'è un problema, tanto è vero che io poco fa ho già avuto, mi centravo la sua emissione, praticamente andavo nella ricerca di trasmissione, quindi io non ho problemi nei suoi confronti, ma neanche nei confronti degli altri. Però il problema sussiste quando lui parla anche con i baracchini, questo diceva Gianni. Certo che sussiste, perché quando uno fa... Aspetta, ho ripreso, non c'è nessuno. Quando parli con un altro che ha il baracchino, lui, cioè questa cosa che è centrato o non è centrato, con i baracchini non esiste, perché trasmetti con un quarto che va a 27,075 in trasmissione, perciò la trasmissione è fissa lì e hai la possibilità col RIT di fare sintonia, col clarifier. Non esiste che uno ti dica, il mio è perfetto perché la manopola rimane alle ore 11 o a mezzogiorno, perché quella manopola lì è fatta per trovare la posizione ideale della banda laterale. E allora, quando parli con un altro che ha un apparato CB, devi sintonizzare quella manopolina con molta dimestichezza e manualità, piano piano, con delicatezza, fino a fare sintonia sul corrispondente. Se hai fatto sintonia su Salvatore, per dire, non è la stessa posizione per Giuseppe o per Pasquale con gli apparati CB, perché l'apparato CB funziona in modo diverso rispetto all'apparato radioamatoriale. L'apparato radioamatoriale fa 27,65, ti metti in LSD e vai perfetto a 27,65 in LSD, non hai bisogno di fare nessun tipo di sintonia, capito? È diverso per gli apparati CB. È chiaro che se Gianni, per dire, Pasqualino e Salvatore si mettono in sintonia uno con l'altro, se poi entra un terzo, è difficile fare quel SEO a 3 o a 4 con gli apparati CB lasciando la manopola fissa, perché ogni volta devi fare sintonia su un'emissione, capito? Non so spiegarvelo, perché in dati non c'hanno questo problema, e il fatto è quello. Cioè, io praticamente l'altro giorno c'era uno spagnolo, tutti l'hanno centrato, hanno fatto il QSO, io andavo a centrarlo, non riuscivo a centrarlo bene. E poi passavo piano piano, a pedini proprio, non sono riuscito a centrarlo in nessuna maniera. Già, io non riesco a spiegartelo, te l'ho spiegato, se l'hai capito, grazie a Dio, credimi, cioè sono una delle prime 50 stazioni al mondo, probabilmente, da CQ Worldwide DX, se ti dico una cosa io, stai tranquillo che è così, che è una certa esperienza, se permetti, se poi sai i corrispondenti che cosa fanno, come girano la manopola, che se sono in banda laterale, USB, LSB, se stanno trasmettendo in un modo o l'altro, non lo so, certo è che le cose sono così come ti ho detto, capito? Questo è sicuro al 100%. Ok. Ma quello che è importante è capire come funzionano le cose. Cioè, se tu fai una prova con uno che ha un apparato radioamatoriale, lui non ha problemi, perché si centra perfettamente sulla tua emissione. Non c'è problema. Se però subentra un altro con un apparato della banda cittadina, lui dovrà fare sintonia su di te. Quello che ha l'apparato radioamatoriale non è un problema, si mette perfettamente su quell'emissione. trasmissione, in trasmissione e in ricezione. La porta è la 27, non è così invece. In trasmissione rimane fermo, bisogna spostarsi per la ricezione, fino a trovare il punto giusto dove riesci a demodulare l'emittente. Capito? Ma se il questione fa 4-5 persone in mano laterale, con apparato CB, se non si sa girare di mano velocemente e tarare fino ogni volta, non ne puoi fare di QSO. Marco, io di apparecchi con le manufatture ne ho fatto tanti altri, capito? Non mi hanno mai creato questi problemi, è quello che c'è, per questo sto scrivendo. E guarda, che io capisco che tu ne hai avuto, ma probabilmente ne ho avuto anche qualcuno anch'io, e ho anche apparecchiature per poter provare e dire se le cose vanno bene o non vanno bene. Ma non è che c'è qualche tattino più 5 e meno 5 schiacciato, ma già quell'apparecchio? Non ne ho di cosa della banda, di kilohertz che tu puoi spostare 10 da una parte, 10 dall'altra, non ce n'è qua. Quelle prove, scusa, con chi le hai fatte? Persone atte in libri, sanno come fare, sanno che apparato stavano usando, hanno preso CB, hanno preso e cioè, hai capito? Non so. Io sono sicuro di quello che ti dico perché le prove che ho fatto con quell'apparato è perfetto, perfetto proprio. Allora, io non è che ti piace non sia perfetto, ma può capitare che magari si sia spostato di qualche pelino, capito? Non che non sia perfetto perché va benissimo l'apparato, non so che va benissimo, è nuovo e tutto quanto, non è che ti stai dicendo niente. Sto dicendo insomma che questo problemino qui me l'ha causato per 2 o 3 volte tutti persone di svolto. Ho parlato anche con un diti che aveva un Kenwood, ma te si è spostato di frequenza. Aspetta che ti c'entro, parla e metto, sì, si è spostato sotto. Oh già, Mark, ma mi sembra che non capisci l'italiano. Ti ho detto che sugli apparati radioamatoriali è ovvio che non ti fa sintonia perfetta sulla tua emissione. La prova devi fare con un apparato che non sia un apparato radioamatoriale, con un apparato della banda cittadina, perché lui trasmetterà a 27.075, 0.74, 0.76, perché non è che sono perfetti all'ERP gli apparati della banda cittadina, perché sennò non costerebbero 300 euro, ma costerebbero 1000 euro con gli apparati radioamatoriali. Hanno la possibilità di spostarsi solo in ricezione, hai capito? No, ma io ho capito da poco fa, Marco, che io non abbia capito. Vabbè, comunque io devo essere in condizione di fare un QSO a banda laterale, di fare degli ex come facevo prima, quello lì che voglio dirti, capito? In queste condizioni qua non lo so se riesco a farlo, è quello il problema. Se loro mi centrano, se riesco a centrare, perché io a volte non riesco a centrare a loro, è quello lì, perché tu mi stai dicendo che io posso centrare loro, ma io non riesco a centrare tante volte, vado a centrare e non riesco a centrare, anche facendo piano piano come dici tu, a pilino, eccetera, eccetera. E boh, non capisco io che cosa fai già, boh, mi sembra strano. Ma scusa, vai in mano laterale con Natalino, con Claudio, con qualcuno un attimino. Ma io? E in USB? USB si va qua, si va in USB. Thank you. Ciao, ciao. Vabbè, tu, Marco, mi hai dato delle velocità Io la verità ho sempre usato apparecchi CD, quindi se la mia materiale non ne ho mai avuto, anche per una questione di principio mia. Non mi piace avere apparecchiature che non posso tenere. Certo, questo mi fa onore, giustissimo, che sia così, ma sai, il radio è come parlare fra pescatori, capito? È come parlare fra pescatori, e allora se tu parli col pescatore ma non hai visto che tipo di attrezzatura ha e non lo hai mai visto neanche pescare, tu ascolta e poi fai delle riflessioni. Solo esclusivamente quando l'hai visto pescare e hai visto che tipo di attrezzature ha e soprattutto come lavora, allora potrai dare dei giudizi, capito? E in radio è la stessa cosa, se ne sentono di tutti i colori, però quello che è importante è cercare di capire chi sa e da quale persona poi ascoltare e apprendere le cose, oppure chi magari parla, non ha conoscenza più o meno, e magari è giusto che lo ascolti e trai delle considerazioni per le relazioni all'esperienza e alla conoscenza che può avere, capito? È tutto lì. Vabbè. Io ho voluto chiedere se non c'è. Non ero sicuro, la verità era un po' tentennante, ho detto magari forse si è spostato, forse come scaldato, come lui. Ho pensato anche quello, che magari come scaldava si spostasse di frequenza, capitavo anche gli apparati, questo fatto qua. Già, ma queste cose delle derive termiche sono per cose che, per problemi di grande escursione termica, è ovvio che se accende un apparato transistorizzato, appena non acceso può spostarsi un pochino, ma dopo un paio di minuti che funziona non ha problemi di scivolare di frequenza su e giù come un cavallo corridore. E quello è tipico degli apparati in valvole, ecco, queste cose capitano negli apparati a valvole, anche della mala cittadina a valvole, perché ci sono ormai vecchi come sotto gli scarichi, le valvole scariche, ma non problemi così come un apparato tipo quello che hai. E poi stai tranquillo, se Marco ti dice che quell'apparato è a posto, chiature per poter provare e per poter asserire quello che sto dicendo, questa è la cosa primaria, poi tutti gli altri discorsi sono in più, è utile, che capisco. Ok, non penso che una lucidazione che sia tranquillo, io non ho pensato mai che tu mi volessi fregare le mie, ho pensato che magari se scaldando le cose potessi scivolare di frequenza, magari per qualche cosa che non andava bene, che succede? No, non ha preso per tanti anni, che succede? Non a quell'apparato lì, perché ti ripeto, l'ho provato e riprovato, capito? L'avessi preso, l'avessi messo lì e poi l'avessi provato così 2 minuti, ma a quell'apparato l'ho usato per ore e ore e ore, è rimasto acceso, in funzione, ho avuto modo di fare tutte le prove in bilaterale, in AM, vedere come si comporta, e quando ti ho detto quello che ti ho detto perché ero sicuro di quello che ti dicevo, no, hai capito benissimo che a me di dare una parata a te e di dire non me ne frega, ti ho già detto guarda, se c'è qualche dubbio comunque dimmi un pochino domani quando sto rientrando a loro, poi se me lo riprendo, perché mi sono già mezzo pentito anche di averlo tolto là, perché so quelle cose che fai così e poi dici ma fa pure macchina l'ha fatto fare, tanto lascio a voi, non mi chiedeva niente. Io non c'è problema, non ti ritrovo niente. Oramai sono un bambino grande, come stavo dicendo, comunque non è che va benissimo, guarda, abbiamo parlato con Chiara Monti, parlato con uno che aveva una macchina, che è una malattia in macchina. Esatto, e l'apparato funziona, va, ovvio che la potenza che è quella, però funge. Natali, tu che cosa stavi usando in malaterale? E poi non sei andato a casa, io sono andato così e ripeto, io sono arrivato a casa, c'era qualcosa. radio, e poi vi saluto tanti, a San Giro dalle 5. Abbiamo visto che lavoro sta cominciando quello che fai tu. Il presidente Jackson sta usando Marco. Basta, va bene. Mi hai fatto preoccupare, chiamavo la cassina, non ti trovavo, non ci ho pensato a commutare subito in LSB perché l'avevamo detto in USB. No, era già in LSB. Io non me ne sono reso conto, allora credevo che era M, no? E allora attacco girato e invece me ne sono andato in LSB. Era già in USB da parecchio, capito? Basta, vabbè, cose che capitano, batterino. E allora, ho sbagliato io, perché stavo parlando e mi andavo a telare, solo che non me ne sono reso conto e ho girato ulteriormente la manopola. Pensavo che era in AM, invece era in USB. Non ci ho pensato, tacco, ho girato ed era in LSB, è lui che non riusciva a entrare. Come se, in LSB so, tacco, ho girato e subito lui è entrato. Claudio, non chiude mai prima di ascoltare i finali delle altre corrispondenti. Cosa sta dicendo Marco? Carissimo, ho detto parlando così, ti volevo salutare. Ti ribadisco che ti sentivo la basanta questa volta. La basanta, ho sentito che parlavi, questo è Claudio. E qui, finché più avanti ti ho sentito sempre più chiaro. Bene, ma la basanta è molto più in aria, ma com'è? Non abbiamo problemi. Sentiamo sempre tutta la Sardegna. Quando è Nicola, la Sardegna è divisa in tre parti, due sono di Claudio Sparviere, una è di Cibilissà, se nessuno ci crede. Bella, mica c'è Salvatore, avanti con la buonasera. Aspetta Salvatore, ma è stato una bella, vi saluto tutti, vi stavo ascoltando prima di chiudere. A che punto sei con l'antenna, Marco? Niente, neanche iniziato. Su quell'ora e cosa ho fatto qua? Non hai sentito che ero con l'alleto con l'influenza? Oggi ci sono sceso a Cagliari proprio perché non potevo fare a meno di dovevo assolutamente andare, dovevo risolvere gli impegni. Sono ancora così, sono troncato, domani mattina sono veramente, sono a nulla, figurati. Ah, questo fine settimana c'ho probabilmente in qualche ritaglio notturno magari, lunedì che sono più sereno, ma non posso fare tanto che mi hanno lasciato tutto il giorno, magari ci sentiamo anche, se tu sei rientrato da quell'impegno speriamo che si sia risolto un frattempo. No, sì, ti continua, sono rientrato perché avevo bisogno di riposare un po' la schiena stasera, con quello che poco c'è un'altra barzinata e siamo decisi questa volta a spegnere i motori. Questa volta li abbiamo lasciati in moto, ma se il 28 non abbiamo certezze di questo passaggio, abbassiamo direttamente i generatori, gli interruttori e quant'altro con tutte le conseguenze che saranno a nostro carico, non ce ne fate niente, te l'ho detto al telefono, quindi siamo pronti questa volta a far scendere da Roma quelli che devono scendere. Perfetto, ci ha già dato carta bianca, perciò del resto non ce ne fotte proprio nulla. Quando Sassari e tutta la Sardegna rimarrà senza acqua, andranno sottoposti alla regione a rompere il culo al presidente della regione, non certo a noi. Va bene, d'accordo, ci aggiorniamo allora a fine settimana. Il microfono per Salvatore, buonanotte a tutti, ascolto ancora i vostri finali fino a quando ci siete, poi spengo in automatico il timer di questo motricciato che mi permette di arrivare in tutto il nord di Sardegna, compreso anche il sud, è così, non ce n'è per nessuno, la torre, avanti Salvatore. Salvatore, sta cercando di dire che tu guarda che si è la mia mano. Ma non posso fare così, Salvatore. Ma c'è un po' di tre microfono. Io rientro. Ciao a tutti, buonanotte, magari orecchie tese domani. ancora un po' di prove in modo laterale. Ciao, ciao, ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Natalino, ciao Salvatore, ciao chiunque in ascolto. Sorsa in QRT, good night, oh yeah. Oh, Marco, buona QRT, buon tutto. Ti stavo dicendo, ho sentito in un certo posto la voce della Sardegna, ma mi stavo mangiando il microfono, ho capito. Non ho potuto risponderti, ciao carissimo. Ascolto questi ragazzi che hanno bisogno di un po' di potenza. Ciao, ciao, ciao, buonanotte, ciao. Ciao, ciao Matteo, io non l'ho chiamato né presidente né governatore, ma tra l'altro gli ho detto solo una parola, se lei veramente è il nostro governatore, il cosiddetto presidente della Sardegna, ci dia risposto, perché altrimenti lei per noi è Renato solo, è buco, e non mi ha neanche cagato. Ciao Marco, buonanotte. Ma tenete duro, staccatevi, fatti non vedere che devo comandare su tutto, oltre a fatelo veramente, che lui crede di essere padre stero. Ha fatto un casino anche sul digitale, sul digitale lo so che è un casino di realtà. Perché ci vuole guadagnare lui, caro Gianni, hai capito? Lui vuole che il digitale sia collegato a Tiscali, così ci mette in tasca un altro po' di miliardi, capito? Tu immaginati che i nostri dirigenti, i miei dirigenti, da 80.000 euro all'anno, ci hanno portato lo stipendio a 110.000 euro all'anno, cercando di equiparare i loro stipendi, togliendoli da noi, capito? Perché io se passo in abbonamento a me non me ne frega niente se mi tolgono 200 euro lo stipendio, perché vivo lo stesso, però quei 200 euro vanno a lui, vanno ai nostri dirigenti, perché per governare l'unico gestore delle acque loro ci hanno aumentato lo stipendio da 80.000 euro all'anno a 110.000 euro all'anno, mettendo a noi operai con il contratto regionale, ci vuole togliere il contratto regionale e applicare il del gas acque, che è un contratto nazionale che non serve a un cazzo, proprio a niente, capito? Tanto sono le piedi i bambini che fanno quello che vogliono e mangiano sugli altri sempre così è stato. Noi ci ripetiamo, tanto fanno sempre ciò che vogliono. Capo Marco, buon corretti, dai, io non ho fatto mai salutarti prima. Avanti, guardate. Buonasera a Salvatore, che è appena entrato. Ciao Marco, Claudio, cioè tu ci fosse all'ascolto, io purtroppo me ne passo in QRT perché già te l'ho detto già che ho quell'impegno lì, là. Vi saluto tutti molto cordialmente, non me ne passo in QRT. Funziona. Io ho 15 anni di servizio, in 15 anni non ho mai rotto le palle a nessuno, ho sempre guadagnato onestamente il mio stipendio e ho svolto lo stesso stipendio, perché io ho fatto un concorso, ho vinto un concorso per avere quei titoli e lui li vuole togliere, capito? Perché non vuole più queste cose così che sono state fatte magna magna. Hanno sempre mangiato loro, non noi operai, noi ci abbiamo sempre perso in tutto, capito? Quindi se lui decide di fare queste cose, noi le tagliamo le gambe, tanto abbiamo già deciso che il 28, quindi Sassari, Nuoro, Lipano, Cagliari e tutte le province della Gallura che sono nate da poco, andiamo a Cagliari, al Palazzo Regione, facciamo un fuoco e bruciamo 800 schede elettorali, capito? Poi vediamo lui come capo si presenta, senza CT che andremo a fare a Roma e senza la cosa più grave che succederà, mettiamo in ginocchio tutto il servizio idrico della Sardegna, compresi i consorti di bonifica, tutte le utenze e tutte quante le cose immaginabili che ci possano essere nel servizio idrico, senza crearci problemi noi personalmente e senza boicottare niente. Abbassiamo l'interruttore delle pompe in tutti gli impianti del nord Sardegna, nord, centro e sud Sardegna e poi vediamo da dove arriva l'acqua. Va al fiume lui a bere e a lavarsi il culo, lui e la moglie.

mi piace proprio. Però se sento il rumore mi fa. Mi riprende. Quindi l'altro giorno sono andato sul canale 6, erano questi delle Canarie, c'era quella Elena che avete parlato voi, in banda laterale era, no? Ma la Giuseppa, sì, la Giuseppa, vive in Bigante e la vita adesso. Poi conosceva anche Tommo di Grecia, e la conosce questa. E poi dai, dove? Io la vedo, sì, caro amico Rasso, amico, hermano della Sardegna, mi voglio chiudere la vita di un libro, e tutto. Ecco, guarda, a me non mi sono fatto. Perché non mi posso più fare il ex, non mi entro a farmi una chiacchierata, così e via. Io vi dicevo, testigo, sono arricchito, ma basta che ancora so. Dopo che lì si metteva a ridere, poi mi diceva, beh, gusto la Sardegna, beh, gusto la Sardegna. Beh, sì, nulla. Guarda che te chiedo, voi dove siamo in spagnolo? Ehi, noi diciamo una cosa. Allora, no, era l'altro giorno. Bomba c'era lì, aveva forte di tutti, anche degli altri amici suoi, e le Canarie permette quella ragazza. Non te l'hai vista. Grazie. centrale. Grazie. programmatori, quindi sono tutta la banda praticamente. Fa 15, 20, 40, 80 cose il lavoro devo fare, quindi quello che vuol dire valore, cosa vuol dire valore? Che la sola non ce la fa neanche, perché non mi lo fa al computer. Non ho visto bene, ho visto che per cosa utile. Ti voglio dire che forse è un peccato.